Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Per permettere che il nostro telefonino prenda un po' ovunque ci troviamo, il territorio italiano è stato disseminato di ripetitori. Questi apparati naturalmente consumano energia per funzionare e tendono a surriscaldarsi, così sono stati dotati di un condizionatore. Eppure in molti casi sarebbe sufficiente far circolare all'interno dell'apparato l'aria a temperatura ambiente, quella che si trova all'esterno, con grande risparmio di energia. Si parla in questi casi di free cooling, quindi raffreddamento libero, letteralmente. Eppure in molti casi il condizionamento montato a bordo di questi ripetitori semplicemente non prevede il free cooling. Ebbene, questo dei ripetitori dei telefonini è un buon esempio, prima di tutto, di come siamo poco attrezzati culturalmente per evitare sprechi davvero inutili di energia. E in secondo luogo di come si possa risparmiare molto facendo uso del free cooling, una pratica che è ancora poco diffusa, di cui vi vogliamo parlare questa sera con l'aiuto di Michele Vio, presidente di AICAR, associazione culturale che si occupa di riscaldamento e di condizionamento e di fare appunto cultura in questo settore. Buonasera, Vio. Buonasera. Allora, free cooling, ci aiuti un po' meglio a capire di che cosa si tratta? Beh, free cooling vuol dire raffreddamento gratuito e quindi vuol dire utilizzare le condizioni dell'aria o altre condizioni, ad esempio del terreno, come vedremo meglio dopo, per condizionare in modo gratuito. Quello della telefonia è un esempio molto interessante e qui con un po' d'orgoglio possiamo dire che l'Italia ha fatto da guida a questo, perché nel corso degli anni le varie compagnie italiane telefoniche hanno migliorato tantissimo, tanto che si può pensare nelle nuove centrali di arrivare dei risparmi medi sul territorio italiano fino all'80% rispetto a quelle di qualche anno fa, con quindi valori molto elevati anche. Veramente elevatissimi, che però appunto dimostrano anche che forse prima si sprecava molto. Assolutamente sì, e la cosa invece è molto interessante da dire, se questi vantaggi si possono avere nel tecnologico, dove ovviamente però si lavora anche con temperature dell'aria più elevate, la domanda da farsi è: si può utilizzare questo anche nella climatizzazione? E la risposta è sì. E ci sono due tipi di free cooling fondamentalmente, vero? Sì, esatto, quello che si chiama diretto, che viene fatto con l'aria esterna, cioè sostanzialmente quando l'aria è in condizioni favorevoli si prende l'aria, si tratta magari anche con delle forme di umidificazione per raffreddarla ulteriormente e si manda all'interno degli edifici. Se no, l'altra è quello chiamato indiretto, che è sostanzialmente di solito di tipo geotermico, nel senso che si sfrutta il calore del terreno, cioè il fatto che il terreno è generalmente più freddo, o la frescura, sì, la temperatura media della città, e con questo si può raffreddare o direttamente l'aria o raffreddare dell'acqua che poi viene mandata in circolo. Va bene per tutti i climi, il vantaggio è lo stesso, bisogna avere delle accortezze. Beh, il free cooling diretto, quello fatto sull'aria, è quello che porta i risparmi maggiori. In certe città italiane, se ci confrontiamo nel palazzo per uffici che lavorano di giorno, il risparmio potrebbe essere attorno al 50% di risparmio sulla climatizzazione a livello annuale. Va molto bene, tanto più il clima è secco, per cui le due città peggiori in assoluto sono Milano e Palermo, che hanno due climi completamente diversi ma entrambi molto umidi. Molto umidi. Sono città come Grosseto, Bari, Reggio Calabria, Trieste o Perugia, Perugia è eccezionale per il free cooling, che, dove si possono ottenere dei risparmi davvero notevoli. Davvero notevoli, questo vale per, abbiamo detto, gli edifici del terziario, ma vale anche per il residenziale, probabilmente anche per molti siti industriali. Ecco, tra l'altro il free cooling è un buon oggetto sul quale fare anche una riflessione un po' generale. Voi a un certo punto parlate di cortocircuito legislativo, cioè vedete un rischio in qualche modo che la remunerazione delle rinnovabili vada a discapito dell'efficienza energetica. Ci vuole spiegare un po' meglio? Sì, il problema nasce tutto dalle definizioni e ancora non si capisce bene se il free cooling sia considerato o no rinnovabile, e non avrebbe senso che non fosse considerato tale, però anche altre cose tipo il recupero di calore non viene attualmente considerato rinnovabile, e facendo questo c'è il rischio di premiare di più gli impianti che alla fine consumano di più, perché così come sta il decreto si riesce a fare tanta più energia rinnovabile quanto più è il consumo invernale, e quindi è logico che tutto ciò che va a discapito di questo consumo, dall'isolamento degli edifici al recupero di calore, anche all'uso di free cooling laddove serve, potrebbe non far premiare gli impianti fatti in questo modo e quindi paradossalmente premiare chi consuma di più, che ovviamente dal punto di vista dell'efficienza energetica è appunto un paradosso. E voi che cosa suggerite di fare, quindi? Come si può risolvere questo problema? ICAR propone un metodo che permette di pareggiare e mettere sullo stesso piano quello che è l'energia risparmiata con quello che è l'energia prodotta da fonti rinnovabili in senso stretto. In questo modo si permette di premiare chi risparmia di più e non chi consuma di più, come potrebbe succedere. Infatti nel nostro position paper diamo degli esempi in tal senso. E d'altra parte quello che interessa è proprio alla fine quanto si consuma, al di là di ogni altra definizione. Quindi insomma dite, diamo un incentivo anche all'energia risparmiata, ogni kilowattora in meno che uno consuma riceve un piccolo incentivo analogo a quello che riceverebbe se lo producesse per esempio con le rinnovabili. In questo modo si riescono a confrontare queste due grandezze, a metterle insieme, a fare una scelta ottimale sostanzialmente. Assolutamente, anche perché il nostro è un clima mite, paradossalmente nel clima mite è quasi più difficile riuscire a fare risparmio energetico, perché è facile farlo nei climi rigidi, comincia a diventare molto più difficile quando il passaggio tra riscaldamento e condizionamento è il confine è sempre molto labile, bastano poche cose per spostare un consumo da una parte all'altra, è per questo che diventa fondamentale. Grazie Michele Vio. Grazie a lei, buonasera. Ci salutiamo qui, buona serata.